dialoghi silenziosi. Ci sono pensieri un po' misteriosi. In tutto questo vivere tranquillamente, loro fan finta di dormire ma son svegli sempre. Anche se a volte se ne vanno da qualche parte, tu ti senti come un taxi senza conducente, che all'inizio poi ti senti girovagare, chissà poi quale dove ci sarà. Che non vi dico, senza l'influenza di nessun'arte, fa sembrare vivo tutto questo mentre, che all'inizio poi ti senti girovagare, chissà poi quale dove ci sarai.